Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Con il termine smart worker si intendono quei lavoratori che godono di discrezionalità nella definizione delle modalità di lavoro in termini di luogo, di orario e di strumenti utilizzati. Insomma, una flessibilità nello svolgere le proprie mansioni che, per esempio, renda possibile una maggiore conciliazione tra lavoro e vita privata, che riduca gli spostamenti al minimo necessario e così via. Ormai non si contano più gli studi che dimostrano come i lavoratori subordinati che godono di questa opportunità siano più soddisfatti del proprio lavoro, siano più proattivi, siano più produttivi e anche più fedeli al datore di lavoro, pubblico o privato che sia. Grazie all'evoluzione delle tecnologie e internet, insomma, lo smart working è ormai una possibilità più che concreta. Quanto invece sia una realtà diffusa lo misura ogni anno l'osservatorio smart working del Politecnico di Milano, di cui abbiamo in linea il responsabile scientifico Mariano Corso, che è stato altre volte nostro ospite. Buonasera Mariano, bentornato. Buonasera Maurizio, grazie dell'invito. Allora, partiamo un po' dai dati macro che vengono fuori da questo vostro ultimo rapporto. Come va lo smart working in Italia? Lo smart working procede molto bene, è un fenomeno in ampia diffusione, sempre più persone, sempre più lavoratori, anche nel lavoro subordinato, possono essere classificati come smart worker. Abbiamo registrato un incremento negli ultimi 3 anni di oltre il 40%, sono 250.000 lavoratori delle imprese private che oggi godono di piena flessibilità in termini di luogo, tempo e strumenti di lavoro. Benissimo, ecco, quali sono i settori dove va meglio e quali invece quelli in cui va peggio? Per fortuna in Italia ci sono molto più che 250.000 lavoratori, ecco. Certo, infatti noi abbiamo stimato un potenziale dello smart working così come oggi noi lo conosciamo di almeno 5 milioni di lavoratori, quindi stiamo parlando comunque oggi di un fenomeno, diciamo, agli inizi, sì. Un fenomeno che è passato dal 5 al 7% ma comunque ha molto margine di crescita. Dicevi i settori in cui è più naturale una diffusione dello smart working sono certamente quelli ad alta intensità di informazione, quindi i settori dei servizi oppure all'interno delle società manifatturiere o di retail, quelle componenti, le staff, insomma tutte quelle componenti aziendali che lavorano, operano. Che non hanno le mani nei bulloni, diciamo, che non sono lì sui macchinari a farli funzionare. Ecco, qua non sono a sportello con i clienti. Certo, e qua mi porti, diciamo, alla domanda successiva che è, ma veramente questo smart working è per tutti? Se pensiamo appunto all'operaio del manifatturiero, ecco, lì ci sono degli spazi per introdurre lo smart working? Ci sono e vediamo già oggi dei bellissimi esempi, delle bellissime iniziative. Ad esempio in Tetra Pak, che è una società che opera a Modena, le squadre di operai hanno ampia flessibilità nel definire gli orari di lavoro e determinate attività che hanno a che fare con il data entry, con le informazioni, possono essere gestite da remoto e quindi gli operai hanno la possibilità, quando serve, quando è possibile, di lavorare da casa. E tieni conto di questo, cioè il lavoro operaio, il lavoro di fabbrica sta cambiando molto velocemente, quindi sempre più con le nuove tecnologie avremo la possibilità di ampliare il livello di discrezionalità e di autonomia da parte degli operai. Diciamo che con l'introduzione della cosiddetta industria 4.0 il lavoro dell'operaio assomiglierà sempre di più a quello del colletto bianco, saranno quasi indistinguibili, quindi a quel punto ci saranno ampi spazi per lo smart working anche lì. Ecco, a proposito di ampi spazi, sono invece amplissimi nella pubblica amministrazione, che di mestiere non fa altro che gestire delle informazioni burocratiche sostanzialmente. Lì si potrebbe fare quasi tutto in smart working, invece siamo molto lenti su questa partita. Hai ragione, siamo molto lenti, c'è un grandissimo interesse, c'è anche un fermento dal punto di vista normativo, perché sia nel disegno di legge sul lavoro agile si fa riferimento esplicito all'applicabilità nella pubblica amministrazione, nella legge Madia c'è addirittura un obiettivo, c'è un grande interesse da parte delle pubbliche amministrazioni, ma ahimè pochissime iniziative concrete. Ci sono, ma sono oggi ancora troppo poche. Qualche esempio? Guarda, un esempio interessante è recente è quello del Comune di Torino. Il Comune di Torino, oltre a promuovere il lavoro agile tra le imprese del territorio, ha sviluppato una serie interessante di sperimentazioni al suo interno, portando alcuni settori delle attività dell'amministrazione comunale in smart working. Un altro esempio interessante è quello di Trento, invece, della provincia di Trento. La provincia autonoma di Trento ha creato nelle valli della provincia dei DAB, e quindi i lavoratori della provincia autonoma possono, quando serve, fermarsi, magari quando nevica, no? Quando ci sono 2 metri di neve, invece di andare a Trento, dove vanno in questa specie di ufficetto locale, se ho capito bene, di uffici locali, di spazi locali che peraltro la provincia già possedeva e ha con poco investimento riqualificato, e quindi possono, rimanendo nei loro paesi, assicurare continuità operativa. Quindi grandissimi vantaggi non soltanto per i lavoratori, ma anche per l'efficacia del servizio che la provincia eroga ai cittadini. Va bene, grazie Mariano Corso. Grazie anche a tutti gli ascoltatori.